Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Giappone con Dacia Maraini. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Caro Giappone, con i tuoi odori di pesche in fiore, di dolci di soia, di pesce fritto e di sake caldo, che mi si sono stampati nella memoria olfattiva. Mi sei stato madre e padre e hai lasciato tracce incancellabili sul mio destino. Con queste parole, Dacia Maraini, la mia compagna di viaggio di oggi, comincia uno dei capitoli del suo libro La seduzione dell'altrove, intitolato proprio Caro Giappone. Nome Giappone, capitale Tokyo. Confini: a nord è bagnato dal mar dell'Ohotsk, a sud dal Pacifico e dal mar Cinese, a ovest dallo stretto della Corea e dal mar del Giappone, a est sempre dal Pacifico. Superficie: 377.835 km². Abitanti: 127.288.419. Clima: avendo un notevole sviluppo longitudinale, ha una grande varietà di climi. Ci sono estati brevi e miti e inverni lunghi e rigidi verso nord, grazie ai venti provenienti dalla Siberia. Invece, nella parte meridionale, le estati sono calde e umide e gli inverni miti. In tutto il Giappone si verificano periodici tassi d'umidità, grazie ai monsoni, e nelle stagioni estive possono verificarsi alcuni cicloni tropicali. Forma di governo: monarchia costituzionale. Lingua ufficiale: giapponese. Fuso orario: 9 ore avanti rispetto al meridiano di Greenwich e 8 ore avanti rispetto all'Italia. Documenti: passaporto. Moneta: yen giapponese. 1 yen giapponese uguale 0,0088 euro. Religione: lo shintoismo, il buddismo e per un 4% il cristianesimo. Prefisso internazionale: più 81. Sono a Roma, nella bellissima casa di Dacia Maraini. Ci accomodiamo in salotto e lei si siede su una poltrona con alle spalle una libreria zeppa di libri. Lo sfondo ideale per incorniciare la bellezza di questa donna che dal vivo è ancora più incredibile. Ho certamente un po' di reverenza nei suoi confronti, lei, la grande scrittrice, ma i suoi occhi blu mi tranquillizzano subito, sono accoglienti. E così vado con la prima domanda. Una delle cose che mi ha affascinata del suo libro è stata la descrizione che lei fa dell'esotismo. Così le chiedo di partire da lì. Beh, l'esotismo infatti è un punto di vista, è una prospettiva. Una prospettiva che implica la lontananza e implica uno sguardo carezzevole, insomma desiderante. Si desidera un luogo lontano che si conosce poco e che si mitizza a volte, no? Si mitizza, si pensa che sia un posto meraviglioso, poi quando si va ci si accorge che invece è come tutti gli altri posti, ha i suoi problemi, le sue difficoltà. Però ecco, noi tendiamo a mitizzare i posti lontani, per questo ho detto seduzione. Siamo sedotti dalla lontananza e dai sogni che costruiamo intorno a questa lontananza. Poi quando andiamo lì tutto cambia, quindi dall'Italia al Giappone sembra un posto molto seducente, ma lo è senza dubbio, ma insomma lo è particolarmente perché è diverso, perché è lontano, perché... E poi andando in Giappone diventa invece seducente e esotica l'Italia. L'esotismo come punto di vista sull'altrove, la lontananza come seduzione. La nostra conversazione è appena cominciata, in realtà non siamo ancora partite per il Giappone, ma questa è certamente una buona preparazione al viaggio. Chissà cosa prova ogni volta che arriva là, nella terra del Sol Levante. Per chi come lei ci ha vissuto da bambina, deve essere strano vedere negli anni quanto è cambiato. Cambiato moltissimo naturalmente il Giappone, però forse meno della Cina. Stranamente il Giappone è più attaccato alle sue tradizioni, alle sue bellezze, alle sue architetture. La Cina Sono rimasta sconvolta perché l'ho vista 3 volte in anni diversi, in decenni diversi. L'ultima volta dopo i 2000 la Cina butta giù tutto e ricostruisce nuovo, insomma fa delle piccole New York, delle piccole Chicago, che, dove una volta c'erano delle case basse con le tegole a cupola e così. Conservano i templi, questo sì, ma le città sono completamente trasformate. Questo anche in Giappone, perché poi la modernità purtroppo è fatta di queste specie di scatoloni di vetro e cemento che si trovano dappertutto, ormai è tutto così. Quindi le grandi città, le metropoli, si assomigliano in tutto il mondo. Io pochi mesi fa ero a Bangkok, poi sono stata a Giacarta, è tutto uguale, sono tutte fatte nello stesso modo, con questi grattacieli, poi magari delle casupole abbandonate, strade molto molto rovinate, e poi dopo questi grandi grattacieli. Però il sogno di tutti è di raggiungere queste città fatte di grattacieli. Quindi è vero che il Giappone è cambiato, però il Giappone ha un attaccamento quasi morboso alle sue tradizioni. Basta pensare che il teatro No, che è un teatro che è nato nel 600, si ripete identico a se stesso, proprio non cambia una virgola, e si ripete non solo, ma sono le stesse famiglie che si tramandano di padre in figlio questa famosa maschera di legno che viene tramandata. E lì, per esempio, donne non ce ne sono, è un teatro fatto di uomini, come anche da noi era il teatro medievale. Ecco, per dirne una, no? Ma così anche certi loro culti, certe loro tradizioni sono molto legati. Un teatro fatto solo di uomini. E subito penso a un film di Cronenberg con Jeremy Irons, ispirato alla Madama Butterfly, l'opera di Puccini ambientata proprio in Giappone. Ho una visione dell'Oriente. Vedo che dentro i suoi occhi a mandorla ci sono ancora donne. Donne disposte a sacrificare la propria vita per amore di un uomo. Donne disposte a sacrificarsi, come dice Jeremy Irons nella parte finale del film, e donne estremamente generose, come sottolinea la Maraini. Sì, direi uomini e donne, forse le donne di più, anche perché sono più, le donne hanno una storia di sofferenza maggiore, di esclusione, e chi vive l'esclusione non sempre diventa migliore, ma insomma è più sensibile alle ragioni della sofferenza. Qualche volta no, qualche volta si può diventare efferati per avere subito la sofferenza dell'esclusione, però spesso le donne sono più caritatevoli, più generose, proprio perché conoscono i danni e conoscono il sentimento dell'esclusione. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Giappone con Dacia Maraini. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sono partita per il Giappone con Dacia Maraini. I suoi accesi occhi blu incorniciati da una matita azzurra mi stanno ora facendo strada, insieme alla sua voce, tra la disponibilità e la solidarietà dei giapponesi. Se va a Tokyo ha l'impressione, sì, di essere in Oriente, ma di essere in una grande metropoli uguale a centinaia di altre metropoli, come ho detto, ormai omologate, simili. Poi se invece approfondisce, va a conoscere, va a vedere, va a parlare con la gente, allora lì scopre naturalmente le differenze. Bisogna avere un po' di tempo, bisogna essere disponibili, bisogna parlare con la gente, perché poi le differenze sono culturali più che architettoniche, e allora lì si scoprono delle cose anche molto belle, insomma, perché in Giappone per esempio è un paese dove la solidarietà nazionale, la solidarietà sociale, proprio il fatto che ognuno si sente parte di una collettività è molto forte. E per uno che viene dall'Italia, dove invece questo sentimento di solidarietà sociale quasi non esiste, è un grande sollievo, è un grande sollievo. Non so, basti pensare che quando è caduta la bomba atomica, appena si è saputo che c'erano queste migliaia di morti, da tutte le città intorno sono arrivati in migliaia per aiutare, per curare i feriti, per aiutare, eccetera. Molti di questi, non sapendo che si esponevano alla black rain, cioè alla pioggia nera, cioè la pioggia radioattiva, poi hanno continuato a morire per anni, perché poi hanno preso i tumori dovuti alla pioggia radioattiva. Ma per dire, una cosa così non credo che sarebbe successa in altri paesi del mondo. C'è veramente il sentimento collettivo, della forza collettiva, della solidarietà collettiva, è molto forte, molto forte. Non si può non pensare alle immagini che ci sono arrivate dal Giappone nell'ultimo periodo. Quella grande coesione sociale esiste tuttora, così come esistono ancora certe tradizioni, anche se mescolate a una inarrestabile modernità. Ancora nelle case, adesso naturalmente nelle campagne è diverso, perché in campagne ci sono ancora i tatami, ecco, si tolgono le scarpe, si va dentro, mentre adesso fanno le case all'occidentale, però ancora se si va nei ristoranti, in certi ristoranti, in certi alberghi, si tolgono le scarpe, ci sono i tatami, il letto sta per terra, i mobili sono completamente diversi dai nostri. E si mangia ancora, appunto, si mangia. Questo però, il cibo, credo che anche quello è molto, sono fedeli, perché i ristoranti sono tutti giapponesi, dove si mangia cibo giapponese, si mangia con le bacchette, si mangia soprattutto pesce crudo, si mangia il sushi e tante altre cose che loro mangiano. Quindi anche nel cibo si vede questa come posso dire, adesione, questa adesione profonda al loro passato. Forse l'unica cosa, no, due cose che insomma, chi va lì appaiono abbastanza sorprendenti sono il vestire, perché ormai tutti vestono occidentale, anche se in certe occasioni di matrimoni, di incontri speciali, loro rimettono il loro, però direi che i vestiti sono occidentalizzati completamente. Uno è questo e l'altro è l'architettura. Sono le due cose che più colpiscono per la loro modernità e globalizzazione. Dacia Mareini mi sta portando per le strade del Giappone, una terra che vale la pena visitare, ricca di tradizioni ma anche di modernità, dove la gente è solidale e generosa. Ci sono in particolare due città che la mia accompagnatrice vuole consigliare di vedere e io non manco di seguirla. Beh, bisogna andare a Kyoto, che è la città e corrisponde alla Firenze, insomma, è la città dell'arte, la città dei grandi templi, è la città dei musei, delle cose più belle che ci sono, i giardini, è spettacolare. Io consiglierei una cosa che di solito non consigliano ai turisti, che è quella di andare a Sapporo, che è l'estremo nord del Giappone, che è una zona molto fredda, nevosa, anche lì hanno costruito un'immensità, però ancora ci sono gli orsi, per esempio, insomma è una zona abbastanza meno popolosa, perché il Giappone purtroppo è piccolo come paese ed è sovrappopolato. Allora, a volte andando in treno o in macchina si vede che da Tokyo non c'è discontinuità, non finisce la città, la città si innesta in una prossima città, e questo certamente dà un senso un po' di angoscia, perché manca lo spazio, proprio manca lo spazio. Infatti anche Tokyo è una città dove le case sono piccolissime, dove la gente vive una sopra l'altra, perché lo spazio non c'è, è un paese sovrappopolato. Kyoto e Sapporo, giardini spettacolari e neve con gli orsi. Ma sono i giardini a interessarmi di più, soprattutto pensando alla famosa festa della fioritura dei ciliegi. Dacia mi asseconda. Quello che loro considerano un momento più felice dell'anno, che è la festa dei ciliegi, cioè quando i ciliegi mettono quei bellissimi fiori rosa e tutto il Giappone fiorisce, e loro fanno le loro feste legate alla primavera, che poi sono feste pagane, feste lontanissime, che riguardano le loro tradizioni. Devo dire però che hanno questa capacità di ricostruire degli ambienti che sono rimasti tali e quali, con questi giardini di ciliegi che sono bellissimi. Sembra di vederli, quei petali rosa che celebrano la natura transitoria della vita, simboleggiata dal breve apparire e sparire dei fiori. Penso anche al rapporto che i giapponesi hanno con la natura e con i fiori. Penso all'ikebana, alla disciplina di disposizione dei fiori, in cui natura e umanità si mescolano, dove fiori, rami e foglie hanno la stessa dignità. Anche in questo i giapponesi rivelano di essere un popolo generoso, dove lo spirito collettivo domina su quello personale e privato. E forse, come dice Dacia Maraini nel suo libro, è la cosa che maggiormente si ama di questo paese. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Giappone con Dacia Maraini. When I walk beside her, I am a better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sono nel paese del Sol Levante, chiamato così perché i caratteri che formano la scritta Giappone significano origine del sole. Ad accompagnarmi c'è Dacia Maraini, che qui ha vissuto da bambina e che con questa terra ha instaurato un rapporto molto intimo. Abbiamo già visto quanto le donne giapponesi siano più generose degli uomini, pur essendo tendenzialmente un popolo in generale solidale e teso verso l'altro. Abbiamo assistito alla fioritura dei ciliegi a Kyoto, ma abbiamo dato una sbirciatina anche agli orsi di Sapporo. Per ora non abbiamo ancora fatto acquisti, ma da brava viaggiatrice voglio potermi portare a casa qualche ricordo da esibire, magari in salotto. Così le chiedo di consigliarmi qualcosa. Loro hanno, per esempio, anche, come anche la Cina, questa arte della seta, delle stoffe bellissime in cui fanno questi kimoni bellissimi. Cotone e sete sono veramente straordinari, una grande bellezza e di una grande anche qualità. Adesso i cinesi, lo sa com'è, siccome devono esportare in tutto il mondo, fanno delle cose un po' dozzinali, però se uno va a cercare loro l'arte della grande seta, della grande cotone di grande qualità, ce l'hanno. E poi, non so, ecco, un'altra cosa che c'è in Giappone è l'arte della ceramica. Loro hanno una grande ceramica, è una tradizione straordinaria, fanno delle vetrificazioni con la sabbia, fanno delle ceramiche di una bellezza straordinaria, molto molto belle. Ceramica e anche lacca, adesso che ci penso, per esempio scatole di lacca, le ciotole di lacca, hanno un'arte sopraffina dal punto di vista della lacca e delle lacche. Insomma, se uno vuole portare via qualcosa dal Giappone, naturalmente c'è anche della paccottiglia, c'è anche della robaccia per turisti, però bisogna saper scegliere. Ma se uno va a cercare, trova delle lacche bellissime di grande pregio e sia anche della ceramica veramente di grande bellezza. Che bello deve essere un kimono. Tutto poi sta nel saperlo indossare, come facevano le geishe, stretto da un uomo, perché solo un uomo può farlo, con un grande fiocco. Vabbè, qualche ceramica forse è meno impegnativa. Siamo partite alla scoperta dei sensi in terra giapponese. Adesso Dacia Maraini, la mia compagna di viaggio di oggi, mi porta alla scoperta dei colori. Per i giapponesi i colori sono un linguaggio. Infatti per loro, per esempio, i bambini si devono vestire di un certo colore. E poi non solo, ma le bambine hanno un colore diverso dai bambini. Le ragazze da marito devono avere un colore, le donne sposate un altro colore, le vedove un altro colore, quindi i colori sono molto importanti. Adesso tutto questo fa parte della tradizione, ormai si vestono all'europea e non c'è più tutta questa attenzione al linguaggio dei colori, ma diciamo che nella loro tradizione i colori erano un linguaggio preciso. Il lutto, vabbè, questo anche da noi un po' era così, no? Il lutto non è nero ma è bianco, e poi tutte le gamme dei momenti sociali hanno un colore diverso. Colori come linguaggio. Bello pensare di dare dei segnali all'altro solo per la scelta degli abiti. Bello, ma anche faticoso forse. Per noi dipenderebbe tutto dall'umore di quando ci si sveglia al mattino, probabilmente, mentre qui è qualcosa che affonda le radici nella storia, nelle tradizioni. Voglio capirne un po' di più proprio sulle tradizioni che il Giappone, si capisce anche dalle parole di Dacia, cerca di tenere tenacemente unite alla novità in uno sforzo spesso contraddittorio. Poi no, loro lo mantengono in certe occasioni. Ecco, per esempio, i bambini in Giappone non è che fanno il compleanno uno per volta, si fa il compleanno tutti quelli nati un anno, fanno il compleanno tutti insieme, è una data unica, è così, c'è una festa per tutti. Ecco, allora per esempio in quell'occasione loro ricostruiscono i loro altarini, i loro altari con le loro divinità arcaiche, poi i loro vestiti, i loro kimoni, eccetera. Quindi dipende dalle occasioni. Ecco, teatro è tutto naturalmente fatto così com'era, non è cambiato nulla, anche negli abiti, nei costumi che sono meravigliosi, di broccato, finissimo, tutti ricamati a mano, eccetera. Quindi sì, forse in campagna le occasioni per mettersi vestiti, diciamo, tradizionali sono più frequenti, però ma ormai credo che sia talmente più comodo, no? Filarsi un paio di pantalonacci, blue jeans, ormai ce l'hanno tutti, vanno in giro così. Poi ci sono delle occasioni, appunto, come ho detto, loro tengono le loro tradizioni per le grandi occasioni, i matrimoni, le nascite, le morti, le cerimonie funebri. Allora tu vedi tutti questi vestiti tutti uguali, molto molto eleganti, perché il kimono è bellissimo. È più raro negli uomini vedere il loro vestito tradizionale, più le donne, però ancora si vedono, insomma. E se si parla di tradizioni, come posso non chiedere qualcosa sulla musica? Beh, loro hanno la loro musica che è un misto, insomma, loro hanno la musica tradizionale. Se lei sente quella del teatro, no, le si agghiacciano la pelle, perché è una musica che sembra gli ululati di un lupo, insomma. Per me è bellissima, ma per chi non la conosce è molto forte, molto sgradevole. Però poi loro hanno musica leggera, musica classica come da noi. La musica, quella del teatro no, è una musica classica, difficile, dura. Invece poi ci sono le canzoni, le canzonette, ci sono le musiche di tutti i giorni, persone, sì, loro fanno molto uso di musica, come anche da noi, nei negozi, cioè, dappertutto c'è la musica, però non è la migliore. È una musica, quella lì, diciamo, commerciale, una musica che fa un compromesso tra l'Occidente e l'Oriente, perché si sentono dentro delle forme che appartengono alla musica occidentale, e però magari hanno quella cadenza della musica orientale. Poi dopo devo dire che sono dei grandi cultori della musica classica occidentale, cioè loro hanno, d'altronde lo si vede internazionalmente, non so, nel mercato internazionale oggi grandissimi pianisti, violinisti, direttori di orchestra sono giapponesi e suonano Bach, Beethoven, Paganini, Mozart, Rossini, eccetera, quindi conoscono molto bene, sono bravissimi. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Giappone con Dacia Maraini. When I walk beside her, I am a better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Il Giappone con le sue tradizioni, i giapponesi e il loro spirito di solidarietà, i colori come linguaggio e i kimono come souvenir, ma anche i giardini di Kyoto e la musica del teatro di No. Siamo quasi alla fine del nostro viaggio. Dacia Maraini, che mi ha condotto sin qui con la sua pacatezza, è ora pronta a rispondermi su una grande contraddizione di questo paese, il rapporto dei giapponesi col lavoro. Quello è un punto curioso, contraddittorio, perché loro sono dei grandi lavoratori, sono proprio dei stacanovisti, hanno proprio un mito del lavoro, e però al punto che certe volte ci lasciano la pelle, ma sinceramente proprio muoiono sul lavoro, perché lavorano troppo, perché devono dimostrare il proprio senso del dovere. E credo che il lavoro è legato al senso del dovere. Il senso del dovere è un sentimento collettivo molto forte, che viene inculcato nei bambini. Infatti i bambini a scuola già cominciano a essere ansiosi, perché il dovere dello studio incombe sui bambini, ma piccolissimi, e loro, se non fanno il proprio dovere, se non studiano, vengono allontanati dalla scuola. Quindi è gravissimo, insomma, no, allontanati nel senso, vengono cacciati fuori dalla scuola, però non vanno avanti nelle scuole più prestigiose e hanno molta meno possibilità di inserimento nel sociale. Quindi quelli che rimangono indietro poi saranno costretti a fare lavori più umili e così. E quindi naturalmente le famiglie spingono tutti, e ai bambini gli si inculca questo sentimento dell'orgoglio di appartenere, di essere i primi della classe, di appartenere a un'elite culturale, di essere, devo dire, gli effetti, i risultati sono straordinari, cioè hanno degli scienziati bravissimi, dei tecnici straordinari, quindi sono molto bravi nell'apprendimento, ecco. Ma la sua pacatezza sul discorso del lavoro, una specie di religione laica e tirannica per i giapponesi, si interrompe. Qualche volta, secondo me, si esagera, soprattutto con i bambini, per cui, non so, ma è una mia impressione, ecco, ho l'impressione che gli si caricano troppo di senso di responsabilità, di paura di fallire, di senso di competizione. Questo può portare al suicidio, insomma, sono dei bambini più sensibili, magari più lenti, più, che però sono intelligenti, ma che hanno una lentezza di apprendimento e che possono essere molto puniti o comunque sentirsi decisamente inferiori. C'è un senso, il senso di colpa per non essere all'altezza è molto forte, è molto forte. Questo condiziona, insomma, se si può dire una, diciamo, una, un difetto del Giappone con i suoi grandi pregi, per me è questo, ecco, che il senso della competizione, che è bellissimo perché produce molto e perché effettivamente tutti sono spinti a dare il meglio di sé, in certi momenti può diventare un'ossessione e può portare l'individuo ad annullarsi, a perdere il senso della realtà, a diventare nevrotico. Credo che molti lavoratori giapponesi, poveretti, sono nevrotici perché, appunto, perché la pressione sul rendimento è troppo forte. In Giappone si lavora tanto, forse troppo, ma è un aspetto contraddittorio di questa terra, sempre a metà tra le tradizioni e la modernità. Come scrive la Maraini nel suo libro La seduzione dell'altrove, nel capitolo dedicato al Giappone, tu sei tragico nell'impegno che ci metti a essere virtuoso. Ma oltre al lavoro, ci si divertirà pure da queste parti? La sua risposta ha un risvolto amaro. Nelle parole della Maraini mi rendo conto che il distacco tra uomini e donne è davvero ancora molto grande qui. I giovani hanno anche loro le loro discoteche, c'hanno, ecco, una cosa che ho notato, però non so se è cambiata, ma insomma, io sono andata ormai 3 anni fa, era la grande quantità di bingo, un'enorme quantità di questo gioco, diciamo così, d'azzardo meccanico. Quello ce n'erano tanti, tanti, tanti. E poi vanno a teatro, vanno al cinema, bevono anche molto, sì. Ci sono per esempio questi impiegati, no? È un problema delle grandi città, perché appunto, come ho detto, Tokyo c'ha 15 milioni di persone. Cosa succede? Che molti, naturalmente pochissimi, abitano vicino a dove lavorano. Quindi molti devono fare 2 ore, 3 ore di treno o di sotterranea, di bus per andare a lavorare. E allora non tornano a casa a mezzogiorno. Quindi rimangono sul lavoro. Questo crea una solidarietà sul lavoro, diciamo che fra di loro si fanno amicizie, eccetera. Però è vero che le famiglie vengono trascurate, questa è una lamentela che viene fatta, e molte donne non possono lavorare, perché se lavorano lasciano dove? Lasciano i figli. Incoraggiante è certamente il viaggio fatto fin qui, anche se la visita nel paese del Sol Levante è finita. Una cosa che mi ha sempre molto incuriosito è la lingua. Prima di salutarci, le chiedo se l'ha mai sorpresa qualche ideogramma. E con la naturalezza che ha tenuto per tutta la nostra chiacchierata, si congeda regalandomi un'immagine bellissima di lei e del suo amato Giappone. Per esempio, il mio nome, Maraini, che vuol dire cavallo. Ecco, questo mi ha stupito, il modo di scriverlo, poi naturalmente ma mi piaceva, mi piace l'idea che nel mio nome ci sia il cavallo. Ora Dacia Maraini è in libreria con La seduzione dell'altrove, edito da Rizzoli.